Nella disgrazia ebbero almeno una fortuna a Concordia. Il direttore della filiale locale della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna è anche il presidente della cooperativa di solidarietà Manitese ed ha esperienza e conoscenza della Grameen Bank del poverissimo Bangladesh. Per privati e imprenditori, Gianluca Viaggi era la persona giusta per capire e aiutare. Ora Gianluca Viaggi dirige la filiale BPER di Finale Emilia. I nostri imprenditori hanno dato un segnale importantissimo. Uno dei segnali più importanti è stato quello di operare anche in condizioni tutto sommato borderline o addirittura in precarietà, pur di mandare avanti e ottemperare le commesse. C'è da segnalare anche in particolare un aspetto legato anche al parco clienti, al parco fornitori dei nostri singoli imprenditori che hanno avuto manifestazioni di solidarietà importanti. Questo, a mio modo di vedere, anche un po' per le risultanze che ho, direi con un successo che possiamo notare adesso, perché adesso a 6 mesi di distanza direi che la situazione non è peggiorata rispetto a quella che era in precedenza. Già questo è importante, perché si è cercato di mantenere, alcune aziende in particolare hanno cercato di mantenere lo stesso trend, lo stesso fatturato che avevano in precedenza. Adesso quello che c'è probabilmente da ricostruire è un po' il tessuto sociale, che riguarda non solo il comparto aziendale, non solo i privati cittadini, ma riguarda un po' la vita sociale del paese, e qua il problema esiste. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Finale Emilia.